Ciao a tutti, sono Margherita e vi leggerò l'introduzione della mia tesi di laurea che ho scritto nel 2015 e che si intitola Pigrizia sostenibile. Lavorare con lentezza, la canzone di Enzo Del Re, era la sigla di Radio Alice, una radio pirata nata a Bologna tra il 76 e il 77. Radio Alice fu un breve ma importante tentativo di esplorare forme di espressione alternative, sia come esperimento dadaista che come gesto di controinformazione. Le parole di questa canzone suggeriscono esattamente lo spirito che vorrei trasmettere con questa raccolta di scritti. L'argomento che vorrei trattare è la pigrizia, mettendo questo concetto in prospettiva e proponendolo come un comportamento sostenibile piuttosto che come un'inclinazione disdicevole. Il materiale su cui mi baserò è vario e proviene da periodi storici diversi. Da opuscoli situazionisti a teorie economiche e saggi di critica d'arte, tutti sostengono lo sviluppo di una riflessione sulla pigrizia come un diritto, una necessità e sicuramente uno spazio di resistenza. Il mio interesse per questo soggetto è nato nel momento in cui mi sono ritrovata nell'area grigia che nella vita di uno studente precede l'ingresso nel mondo reale. Ho sempre pensato a questo momento con grande ansia, poiché nella mia mente costituiva un punto finale piuttosto che un inizio. Essendo nata negli anni 90, la realtà del mio tempo è sempre stata caratterizzata da una depressione sociale ed economica. La rivoluzione culturale che ha caratterizzato gli anni di Radio Alice trova il suo corrispondente negativo in questo periodo, segnato dal disincanto per l'attivismo politico e la rassegnazione ad un panorama sociale sfigurato dalla corruzione e dalle disuguaglianze. Girato l'angolo degli anni 2000, l'idea di futuro è sempre stata fatalmente accoppiata ad un mantra che ripeteva che non ci sarebbe stato spazio per me. È così che ho sviluppato il desiderio di riflettere su questa posizione precaria e sulle possibili vie d'uscita. Cito Radio Alice in apertura di queste riflessioni perché la considero un ottimo esempio di come sia possibile abbandonare le regole del gioco e inventarne di nuove. Smontare gli elementi della struttura predominante ci consente di aprire la strada per altre soluzioni. Il gruppo di studenti che ha partecipato alla radio ha rifiutato di rassegnarsi a una posizione passiva e ha cercato uno strumento di creazione che fosse all'opposto della produzione. Radio Alice, buongiorno. Lunedì 26 gennaio. Ieri nevicava. Stanotte c'è la luna e il 31 sarà piena. Siamo sotto il segno dell'acquario e coloro che sono nati in questi giorni sono tendenzialmente azzurri, con una spiccata tendenza agli scioperi felici. È così che è iniziata la prima trasmissione della radio, Scioperi Allegri, Pigrizia Attiva. Nei testi che seguono vorrei creare un luogo immaginario in cui sviluppare una teoria della pigrizia sistematica, uno spazio per vagare dove la pigrizia prende sopravvento sulle ansie di fallimento per il futuro e si trasforma in una scelta benefica. Se già oggi consideriamo la produttività come un valore ambiguo, nel disegno futuro che vorrei proporre diventerà la reliquia del secolo scorso, che avremmo abbandonato per sopravvivere. In questo modo i pantofolai, gli artisti, gli anarchici e i sognatori ad occhi aperti avranno preparato il terreno per un nuovo modello sociale di felice indolenza. Potete trovare il testo integrale di Pigrizia Sostenibile al sito internet margheritapotenza.com/writing in fondo alla pagina. Ciao, grazie. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io